passeggiavo, ma cadde un patto. Un giovanotto matto mi s'accostò ad un tratto, mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano, sì sì, e con accento strano incominciò a narrare: conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amore. Mia nonna Carolina racconta che i suoi dì innamorati suoi dicean così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri, però la mia bambina che è bionda come l'oro, io mai saprò parlare del mio amore. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri,